Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a Ferruccio De Bortoli che ci raggiungerà tra poco al telefono e a lui, con il direttore del Sole 24 Ore, con lui faremo gli auguri di buon anno, parleremo di questo anno che ci sta lasciando. Oggi è il 31 dicembre, sono le 8:30 e parleremo appunto anche di quello che ci aspetta nel prossimo anno. Io vorrei innanzitutto ringraziare De Bortoli anche perché entrerà dal prossimo anno a far parte dei collaboratori fissi di Radio 24. Come forse saprete, dal 19 gennaio ci sarà un cambiamento di palinsesto, ci saranno alcune novità proprio in questa fascia del mattino, e a quest'ora, alle 8:30, ci sarà ogni giorno un editoriale, un commento sui fatti del giorno di Ferruccio De Bortoli. Alle 9 poi un nuovo programma che sarà condotto da Giuliano Ferrara, un programma di attualità in cui appunto Ferrara avrà ospiti diversi. Discuteremo di argomenti di attualità, un po' come si fa attualmente a Viva Voce. Sono queste un po' le novità che sono previste per Radio 24 per il prossimo anno. Altre novità ci saranno proprio nella fascia tra le 7 e le 9 del mattino, ma non vi anticipo troppe cose, anche perché abbiamo in linea Ferruccio De Bortoli. Buongiorno e buon anno, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, allora io direi cominciamo, abbiamo fatto gli auguri agli ascoltatori e dobbiamo un po' parlare di questo 2008 che ci lasciamo alle spalle. Vorremmo forse non parlarne perché gli ultimi mesi sono stati dei mesi particolarmente turbolenti sotto il fronte dell'economia, sotto il fronte della politica, sotto il fronte internazionale, con queste drammatiche notizie che vengono dal Medio Oriente. Un anno forse horribilis, come l'ha definito qualcuno, come lo definisce sui giornali in questi giorni, e è un anno appunto in cui le cose negative, i fatti negativi si sono un po' accumulati nell'ultimo periodo. C'è ancora qualche problema di linea con il nostro direttore, e quindi io non posso fare un riassunto dell'anno che è passato. Abbiamo citato nella rassegna stampa prima molti interventi su questo fronte, molti interventi anche che hanno dato appunto spazio alle prospettive per il 2009. Ho citato per esempio La Stampa, che ha proprio una pagina in cui si parla di economia, di politica, di esteri, di società, e la politica è sempre un po' in primo piano. Tra l'altro c'è attesa per il discorso di questa sera del presidente Napolitano, l'abbiamo sentito anche nei nostri GR, un discorso che indubbiamente avrà alcuni punti fissi e sicuri, come i punti che riguardano la prospettiva politica. Napolitano è un sostenitore di un dialogo aperto tra maggioranza e opposizione, un dialogo soprattutto costruttivo, ed è anche, ha fatto molto spesso, una forte pressione perché vengano rispettati i diritti di chi è meno fortunato in questo frangente. E quindi per esempio Marcello Sorgi sulla Stampa ricorda questo fatto, che la politica accentua le sue caratteristiche di fission, cercando di prendere definitivamente le distanze da una realtà di crisi insopportabile per gli italiani, ma paradossalmente perché deve ancora chiedere il voto. E leggo questo articolo di Marcello Sorgi sulla Stampa in attesa di ristabilire la linea con Ferruccio De Bortoli. La crisi economica, la sicurezza, l'ordine pubblico, la corruzione, l'immigrazione clandestina e, Dio non voglia, il terrorismo continueranno a essere problemi centrali dell'agenda del governo e dell'opposizione, ma non riuscendo a far nulla per affrontarli, Berlusconi e Veltroni, oltre a scambiarsi accuse all'ora di TG, finiranno per dare la colpa alle procure, ai giudici, agli abusi di intercettazione. Ecco, Ferruccio De Bortoli, la politica è ancora in primo piano, ma più con le polemiche, più con i contrasti, più con le divisioni, che non con le cose costruttive. Cosa si prospetta dal punto di vista politico in questa 2009, De Bortoli? Beh, innanzitutto il 2008 è stato un anno che è cominciato con una promessa di dialogo e che finisce con un dialogo tra sorti, e quindi noi speriamo che nel 2009 ci sia la ripresa di un confronto serio, nel quale ovviamente le parti si rispettino, perché quest'anno non si sono assolutamente rispettate. Io credo che le responsabilità siano divise, ma credo che debba essere la maggioranza a fare un passo avanti nel recuperare il dialogo con quell'opposizione più responsabile, e ovviamente credo che debba essere un compito anche da parte del PD di Veltroni di separarsi più nettamente dal giustizialismo di Di Pietro e di intavolare un dibattito serio soprattutto sulla riforma della giustizia, che probabilmente non sarà al primo posto dell'agenda del 2009, perché al primo posto dell'agenda del 2009 avremo il federalismo fiscale. Ecco, ma concretamente l'Italia ha bisogno in questo momento di riforme di questo tipo, federalismo fiscale, giustizia, addirittura il presidenzialismo lanciato da Berlusconi? Forse sono passi un po' troppo lunghi, quando invece ci vorrebbero anche delle misure molto concrete per affrontare la situazione, cioè il federalismo rischia forse di aggiungere dei problemi a problemi, indubbiamente però è chiaro che c'è un prezzo politico da pagare da parte del governo, a una parte del suo governo, per non far nomi alla Lega. Sarà un federalismo possibile, un federalismo facile quello che avremo di fronte, Ferruccio De Bortoli? Ma il federalismo è ovviamente la ragione d'esistere della Lega, quindi credo che la Lega farà di tutto per mettere al primo posto dell'agenda del 2009 il federalismo fiscale. Ora, ci può essere un federalismo virtuoso, cioè quello che fa in modo che le regioni meno efficienti possano allinearsi a quelle più efficienti. Ovviamente questo solleva tutta una serie di dubbi, cioè è abbastanza difficile credere che dopo mezzo secolo di sprechi ci possa essere improvvisamente da parte di molte regioni, specialmente per quanto riguarda la spesa sanitaria, una scelta di gestione virtuosa. Quindi potrebbe essere un cammino serio, responsabile, ma potrebbe anche essere un accumulo di nuovi costi e di nuovi sprechi che il nostro Paese non può permettersi. Ecco, sotto questo profilo non va dimenticato anche come ha messo ancora una volta in luce la classifica della qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore proprio lunedì, il fatto che l'Italia è ancora un'Italia divisa in due sotto certi profili tra nord e sud, con un sud che stenta proprio. Anche forse più divisa di prima, ecco, questo è il dato di fondo. Anche forse più divisa di prima, indubbiamente, in cui sì, la qualità della vita si è dimostrato che è molto alta complessivamente nelle regioni del nord, nelle regioni alpine, nelle città alpine, Aosta, Belluno, Bolzano, Trieste, che fa parte appunto dell'arco alpino in un certo senso, in cui il federalismo peraltro è già fortemente presente con le regioni a statuto speciale, in cui peraltro ci sono anche Sicilia e Sardegna, ma soprattutto la Sicilia è agli ultimi posti in questa classifica della qualità della vita. Quindi il federalismo può aiutare se interpretato bene, ma può anche essere un ostacolo se è vissuto non in maniera di creazione di ricchezza e di creazione di benessere. Però è un cammino inevitabile, perché proprio la classifica che abbiamo pubblicato noi, che tra l'altro è una classifica che vede il declino delle grandi metropoli nelle quali si vive sempre peggio, questo bisogna dirlo, insomma, no? E il rilancio molto forte di queste medie città dove c'è un rapporto più umano, dove ci sono servizi più fatti sulle necessità reali dei cittadini, ma proprio perché quelle città che tu hai citato, che sono le città più ricche, ma quelle in cui si vive meglio, ma quelle che sono più a contatto con realtà omologhe degli altri paesi, in particolare dell'Austria o della Svizzera o della Francia, e il federalismo è necessario per evitare che queste realtà poi si sentano sempre di più fuori dal nostro paese e ci sia una sorta di secessione dolce, come l'ha chiamata l'ex presidente della regione Friuli, peraltro di centro-sinistra, Riccardo Illy, cioè il fatto che coloro che stanno in Europa, coloro che si confrontano quotidianamente con servizi di tipo europeo, non debbano sentirsi sempre di più appartenenti a quella realtà europea e sempre di meno italiani. Allora il federalismo è un modo di far convivere le necessità delle zone più evolute, che hanno ragioni competitive da soddisfare, ovviamente con un solidarismo di base ben deciso e ben descritto nei propri termini economici. Ecco, c'è un sms al 349-238-6666 in cui si dice: ma i politici faranno delle riforme, ma le faranno solo per conservare i propri privilegi. C'è una sfiducia, Ferruccio De Bortoli, verso la politica, lo dimostrano anche le recenti elezioni in Abruzzo, dove la percentuale dei votanti è scesa quasi al 50%. C'è una sfiducia dei cittadini verso la politica. Sarà possibile recuperare quella necessaria fiducia verso la politica, che è indispensabile per un paese che voglia crescere, voglia essere un paese moderno? Ma la necessaria fiducia si conquista anche con una classe politica che dimostra di essere all'altezza di questa fiducia. Se una classe politica che passa tutti i giorni a delegittimarsi a vicenda è certamente una classe politica che dà una pessima immagine di se stessa, insomma. Ma poi soprattutto occorrono delle decisioni concrete, occorrono delle riforme che siano vicine ai cittadini, alle reali necessità delle famiglie. In questo bisogna dire che la crisi economica può essere un'occasione nella drammaticità della nostra svolta, può essere un'occasione per recuperare un rapporto diverso tra la politica e i cittadini, quindi una politica più attenta al cittadino che lavora, al lavoratore, all'imprenditore, al piccolo imprenditore soprattutto, al lavoratore autonomo, al professionista, diciamo ai cittadini che tendono ogni giorno a tenere in piedi la grande struttura della nostra economia e della nostra società, e quindi questo rapporto può essere recuperato, anche in vista di un appuntamento elettorale, non dico quello europeo che è importante, ma certamente è sentito in maniera un po' più distaccata dai nostri cittadini, ma soprattutto per una serie di rinnovi a livello provinciale e comunale che probabilmente saranno il test di giugno del prossimo anno. Sì, ci saranno appunto anche le elezioni europee, dei test appunto politici. C'è un altro SMS che è un po' un atto di accusa contro di noi giornalisti, dice: i giornali, anche la vostra radio, non sanno interpretare la realtà, l'Italia è diversa da come la descrivono i giornali. È un'accusa che qualche volta si sente, cioè un'Italia che forse i giornali raccontano per i suoi aspetti negativi, per i suoi aspetti di crisi, di difficoltà. C'è anche un'Italia che forse i giornali, anche la nostra radio, non riesce a raccontare fino in fondo. De Bortoli. Ma io credo che le critiche al mondo dell'informazione in parte siano critiche corrette, nel senso che spesse volte il mondo dell'informazione ha finito per illuminare una parte sempre più piccola di realtà, magari dimenticandosene una molto più grande. Probabilmente indulgiamo troppo negli aspetti negativi della vita di questi giorni, poi però insomma l'informazione deve anche segnalare le cose che non vanno, perché coloro che possono decidere in fretta e al meglio per far sì che queste cose che non vanno non debbano più ripetersi. Ma ovviamente anche nostro compito, anche nostro dovere morale, non soltanto professionale, è quello di parlare anche dell'Italia che va. L'Italia che va è un'Italia molto forte, un'Italia molto viva, che si ritrova sulle pagine del Sole 24 Ore, si ritrova nei programmi di Radio 24, anzi diciamo che noi siamo stati i più attenti a descrivere una crisi che ha due facce, una crisi che è negativa per l'andamento della produzione, per l'andamento dei consumi, non tutti, ma è anche una crisi nella quale vediamo che il nostro sistema produttivo e la nostra società si presentano con molti punti di forza che altri paesi non hanno. Ecco, saper sfruttare questi punti di forza è indubbiamente un elemento essenziale per affrontare il 2009. Stiamo parlando con il direttore Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, del bilancio di questo 2008 e delle prospettive del 2009. Abbiamo molti messaggi, alcuni sulla politica italiana, abbastanza critici verso i politici, altri che ci chiedono anche di dare una prospettiva e un giudizio sul fronte internazionale, sia l'Italia cosa sta facendo per il Medio Oriente, cosa può fare l'Europa. La crisi in Medio Oriente è una crisi che è scoppiata, certamente una crisi che covava sotto la cenere ed aveva avuto degli episodi notevoli negli ultimi anni, ma negli ultimi mesi si era sembrata avviarsi verso una possibile, anche se complessa, soluzione. Adesso è riesplosa questa crisi con il massiccio attacco di Israele verso Gaza in risposta ai lanci di razzi di Hamas e alle minacce terroristiche di Hamas. Ferruccio De Bortoli, cosa può fare l'Europa e l'Italia di fronte a questa crisi molto grave sul fronte internazionale proprio vicino a noi? Intanto c'è stato un appello che ha visto insieme tutti i paesi più rappresentativi, le aree più rappresentative, insomma, e quindi quello che è accaduto a Parigi è un dato di fondo estremamente importante, e mi auguro che naturalmente possa seguire con l'accettazione di una tregua da parte di Israele, insomma. Ovviamente anche qui si paga la lunghissima vacanza del potere americano, insomma. Cioè questo fatto che il passaggio di poteri tra Bush e Obama sia così lungo in una fase di crisi economica e ovviamente anche di crisi regionali così acute e così endemiche come quella del Medio Oriente, ovviamente non è più sopportabile in un mondo globalizzato. Insomma, questo probabilmente è uno degli aspetti che colpiscono di più, perché probabilmente non avremmo avuto il fallimento di alcuni vertici internazionali dedicati per esempio alla crisi dell'economia se avessimo avuto un presidente in carica con i pieni poteri. Quindi aspettiamo il 20 gennaio, ma come si è visto in questi giorni, la striscia di Gaza al mondo non può aspettare il 20 gennaio. Ecco, sì, Franco Vaccari sul suo giornale, Secolo XIX, notava come il vero inizio del 2009 sia il 20 gennaio, aspettando appunto Obama. Ci sono grandi aspettative per questo presidente americano, questo nuovo presidente, il presidente che è stato già designato come il presidente della svolta, del cambiamento, indubbiamente dopo gli anni di Bush, con la crisi molto grave della guerra in Iraq, che si è protratta molto al di là di quanto lo stesso quanto Bush sperasse, per come si è complicata la situazione in Iraq e per la crisi economica che poi certamente Bush ha cercato di gestire ma non ha saputo indubbiamente prevenire. Ecco, ci sono grandi attese su Obama, forse troppe attese, Ferruccio De Bortoli. Troppe, perché ovviamente caricato di una serie di responsabilità che probabilmente non sono anche superiori a quello che è il potere del presidente americano. Insomma, certo, noi assistiamo ad un declino inglorioso degli 8 anni di Bush, quella scarpa tirata dal giornalista iracheno è ai noi un'immagine molto amara, ma è un'immagine che segna anche nell'immaginario collettivo la fine della presidenza Bush, che non è riuscita ovviamente a ottenere i risultati che si prefiggeva nella pacificazione dell'Iraq, e soprattutto non è riuscito ovviamente a portare a termine quella roadmap per il Medio Oriente che si pensava potesse essere l'altro lato della medaglia di politica estera degli Stati Uniti dopo l'intervento in Iraq nel 2003. Obama sarà soprattutto concentrato sui temi interni, sui temi economici, sul salvataggio dell'industria americana, sul sostegno al reddito del ceto medio americano, e probabilmente all'inizio forse deluderà coloro che si aspetteranno un Obama molto proiettato sui temi internazionali. Ecco, un ascoltatore, Filippo da Milano, ci dice Bush non è riuscito ad esportare la democrazia, ma è riuscito ad esportare la crisi economica. Ecco, qualcosa di vero indubbiamente c'è. La crisi economica che stiamo vivendo in queste settimane è una crisi che nasce soprattutto negli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti si trovano certamente coinvolti, ma che in cui si trovano, ahimè, coinvolti anche i paesi europei. Come se ne potrà uscire? Il 2009 sarà l'anno della svolta sotto il profilo della crisi economica, Ferruccio De Bortoli. Ma dunque, il 2008, tra i tanti significati, purtroppo molti negativi che ha avuto, è stato l'anno nel quale il mercato ha dimostrato di non avere in sé gli antidoti per superare le proprie crisi strutturali. L'enorme diffusione di prodotti finanziari derivati fuori mercato e fuori bilancio ha generato la crisi finanziaria, che peraltro è partita nel 2007, ma che ovviamente si è svolta nella sua drammaticità in tutto l'arco del 2008. Ma quello che è più negativo soprattutto è che gli Stati Uniti, che sono la patria dell'economia di mercato, sono stati probabilmente i primi a far venir meno il rispetto di quelle regole di mercato delle quali sono stati paladini in tutto questo dopoguerra. Ecco, adesso si parla di restaurare le regole, di fare delle nuove regole, si parla di una nuova Bretton Woods, cioè di rifare quell'accordo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva aiutato le economie mondiali a avere una propria stabilità monetaria, un proprio equilibrio monetario, e che aveva portato anche alla crescita che c'è stata in quasi tutti i paesi. L'Italia in quegli anni si è parlato addirittura di miracolo economico, ma fare le regole regole in questa fase è certamente complicato. Un ruolo ce l'avrà anche l'Italia, ce l'avrà perché presiederà il G8, G8 che si terrà alla Maddalena, G8 che si terrà a metà dell'anno e che avrà tra i suoi compiti anche quello di definire un quadro di maggiori certezze. Ecco, l'Italia può fare qualcosa anche sotto il profilo economico, Ferruccio De Bortoli? Ma l'Italia può mettere al servizio, diciamo, della comunità internazionale un po' della sua esperienza, insomma, non deve pensare di svolgere un ruolo superiore a quello di una media potenza, insomma, quindi bisogna rifuggire anche da quella che è la retorica sul ruolo dell'Italia, che a un certo momento li mette d'accordo tutti, che in qualche modo appassiona qualche volta il nostro Presidente del Consiglio quando racconta dei suoi incontri internazionali. L'Italia può partecipare, lo può fare in un'Europa che ritrova un suo ruolo, perché bisogna dire che uno dei personaggi dell'anno è stato Sarkozy. Sarkozy ha cominciato il 2008, che sembrava una rock star, quando è andato a Petra con Carla Bruni, che aveva appena conosciuto, insomma, finisce il 2008 con un fortissimo impegno, soprattutto sul piano internazionale, ha ridato peso specifico all'Europa. Purtroppo questo peso specifico da domani rischiamo di perderlo del tutto, perché entriamo in un semestre di presidenza ceca, un semestre di presidenza del più scettico degli aderenti all'Unione Europea, perché l'allargamento all'est dell'Unione Europea è avvenuto con l'inclusione di paesi che non vogliono stare in Europa, ma pensano di avere dei rapporti privilegiati con altre aree. Eh sì, questo sarà indubbiamente un problema e già la Francia comunque si sta muovendo, sembra che Sarkozy voglia mantenere un certo protettorato sulla presidenza europea e mantenere anche nei prossimi mesi una leadership certamente non stabilita dalla realtà dei fatti. Ma speriamo che ciò avvenga, perché sarebbe il trionfo di una politica più concreta. Sì, più concreta, indubbiamente l'Europa dovrà anche attrezzarsi per riuscire a darsi delle strutture che siano meno burocratiche, meno basate appunto sull'equilibrio dei poteri che mettono poi sullo stesso piano paesi molto diversi come appunto la Francia o la Germania o la Repubblica Ceca o la Danimarca, che hanno indubbiamente la loro dignità di paesi, ma che inevitabilmente hanno anche un peso economico e politico diverso, oltre che tradizioni diverse, che devono comunque integrarsi, ma in cui in un mondo sempre più globale c'è bisogno anche di leadership che sappiano essere globali. Ecco, io vorrei concludere, avviarci alla conclusione di questa nostra conversazione del 31 dicembre, non tanto facendo delle previsioni, abbiamo visto negli anni passati come... Meglio non farle le previsioni, perché non si farle molto facilmente. Per poi non essere smentiti e per esempio lo stesso, c'è un bellissimo articolo oggi di Leonardo Maugeri sul Sole 24 Ore, sul petrolio, in cui comincia col dire fare previsioni sui prezzi del petrolio non è difficile, è impossibile, forse anche inutile, perché poi la realtà supera sempre quella che possono essere le previsioni, come si è visto proprio sul fronte petrolifero, ma anche su molti altri fattori quest'anno. Allora vorrei concludere con Ferruccio De Bortoli con una speranza, una prospettiva, un obiettivo che ci possiamo dare per questo 2009, come speriamo di poter trovare alla fine del prossimo anno un po' l'Italia, un po' il resto del mondo. Ma guarda, la speranza ce l'abbiamo intorno a noi tutti i giorni, perché viviamo in un paese che si rimbocca le maniche, un paese che lavora, un paese che è unito, molto più unito di tanti altri paesi che spesse volte invidiamo, questa è una ricchezza che noi abbiamo certamente, che ha dei problemi, che spesse volte si parla addosso e male, ma che nei momenti difficili sa dare il meglio di sé. Grazie, io con questa frase appunto vorrei avviarmi alla conclusione ricordando che giustamente la speranza in fondo è qualcosa che tutti noi abbiamo dentro di noi e che tutti noi dobbiamo cercare di portare avanti facendo ognuno il proprio mestiere, ognuno al proprio posto, non solo indignandoci per quello che non funziona, cosa che peraltro è giusta, ma anche cercando di dare una testimonianza di fiducia, di speranza, di prospettiva positiva per il futuro. Indignazione verso quanto non funziona, lo ripeto, è qualcosa che ci vuole anche all'interno di un paese, ma la volontà costruttiva è anche qualcosa che deve muovere tutti, deve muovere ciascuno di noi verso appunto delle prospettive di crescita che devono sempre esserci. Io ringrazio il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, di essere stato con noi, ringrazio Carmelo Lauricelli in regia, ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Radio 24 che ci hanno seguito, che ci continueranno a seguire, spero anche nel prossimo anno con le novità che abbiamo in carriera e che presenteremo nel corso di gennaio. Grazie a tutti e buon anno.